Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. Get the sand out your shoes, and all of that changed since I met you. So we can leave that old shit in the restroom. Okay, now I'm into you like you never knew. I'm falling for you, baby, I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. Young Money. You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell. Left me no other choice but to get down. It's too late, it's too late. It's too late, it's too late. You got it. Con Lil Wayne, I'm into you. Che bella, allegra, mi mette allegria questa canzone, mi piace. Partiamo bene, giusto? Giusto, giusto. E a proposito di Jennifer Lopez, diamo una notizia. Praticamente è una Jennifer Lopez scatenata, quella che i fans hanno potuto apprezzare sul palco del MGM Grand Garden Arena di Los Angeles in occasione del suo ultimo concerto andato in scena sabato scorso. Fasciata in un vestitino rosso, ricoperto di piume, cortissimo e molto, molto stretto, calze a rete chiare e tacchi alti, Jennifer Lopez si è lasciata prendere dal ritmo incalzante dei suoi ultimi successi e si è esibita sul palco in un balletto che ha deliziato gli occhi dei maschietti in platea, perché ha messo a nudo, è proprio il caso di dirlo, il perfetto lato B della cantante. La recente gravidanza, da premettere, che ha avuto, la Lopez è madre infatti di due gemellini, Emma e Max, avuti nel 2008 dal marito Mark Anthony. Non ha insomma inciso sul fisico della vulcanica Jennifer, che ancora appare splendida forma. Direi. Beata lei, ci sta, ci sta. Proprio complimenti. E a proposito di richieste, chiamate, così come abbiamo dato poco fa i nostri numeri, ci ha chiamato Rambo, il nostro fedelissimo radioascoltatore, ci ha richiesto una canzone. Luca Carboni con Fare le valigie. Mi piacciono i tuoi occhi rossi col flash. Programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. the silences they come through glass. It seems as if the days won't pass. I have to wait all patiently for my love to return to me. I handle it well on the whole, yet once a while I lose control. Anche questa è una bellissima canzone, una richiesta che ci è arrivata qui allo 0921 92 32 92. Ricordiamo anche il numero di cellulare, Rosy? 335 56 37 251. E inoltre potete seguirci anche in diretta streaming sul sito www.crmepiradio.it oppure su Facebook. Bene, abbiamo detto tutto. Possiamo chattare, scrivere, fare quello che vogliamo. Infatti già noi lo stiamo facendo con alcuni nostri radioascoltatori, sì, che ci chiedono le canzoni. Sì, sì, sì. A poco accontenteremo tutti. Sì, piano piano, dateci pianissimo tempo. Infatti affrettiamoci. C'è Filippo che ci chiede una canzone dell'Itfiba. Sì, andiamo subito ad ascoltarla. Allora, Regina di Cuori. Sei donna pericolosa, ti fondi e mi confondi, mi cerchi e poi ti perdi, è così. Io non so l'amore, guerra o pace, o collaborazione, grande partecipazione. Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella e della notte la mia stella. Regina di cuori, diverso di fiori, ti giuro l'amore, ma non è eterna fedeltà. Mami, non mami, ma mami, o forse sì, o

grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi. Io e te, che abbiamo fatto a pugni, io e te, fino a volersi bene. Io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente. Io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera. Io e te, io e te, io e te, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi. Senza saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Una richiesta che è arrivata sempre qui allo 0921 92 32 92 da parte di Antonio per Maria. E noi salutiamo sia sì. Antonio che Maria. Ciao Antonio, ciao Maria. Con la speranza che Maria stesse ascoltando. Sì, ma io credo di sì, sicuramente. Allora adesso ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità e poi naturalmente ritorniamo sempre qui in diretta, naturalmente con Toc Toc. Con Rosy. RMP Radio Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. Cosa guardi? Tu guardi me. Hai visto anche lui con me. Mentre stringi la mano lo guardi a fondo, ma tu guardi, tu vedi me e non lo sai. Se ti volti ancora è finita, se ti volti vengo lì da te senza niente di buono da dire. Chiudo gli occhi e con le mie dita ti percorro se non ho niente di meglio da fare che restare a giocare. Gira l'estate, mi gira un po' sui fianchi e sul viso, è un disco che mi comprerò. Gira l'estate, sogno di te, l'amore perverso è un cerchio. Conto fino a tre, conto fino a tre. Cosa guardi? Tu guardi in me. Vedi a lui non dispiace se se ci vieni a trovare quando ti pare. Guardi lui e poi guardi me e già lo sai. Se ti volti ancora è finita, se ti volti viene lì da te senza niente di meglio da fare che restare a guardare. Gira l'estate, mi gira un po' sui fianchi e sul viso, è un disco che mi comprerò. Gira l'estate, sogno di te, l'amore perverso è un cerchio, conto fino a tre. Uno, non parlare. Due, non guardare. Tre, baciare. Conto fino a tre. Gira l'estate, mi gira un po' sui fianchi e sul viso, è un disco che ci suona solo in estate, quando si fa l'amore all'aperto e si vive in un'altra età, in un'altra età. Cosa guardo? Io guardo te. Cosa guarda? Lui guarda te. Togli quell'imbarazzo e lasciati andare. Cosa guardo? Io guardo te. Laura, bellissima canzone.

there's a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Are you loving the pain? Siamo sempre qui in diretta su CRM Happy Radio con Jerry e Rosy. Toc toc, chi è? Siamo sempre noi, siamo sempre qua. Siamo sempre noi, pronte con le nostre richieste e a tenervi compagnia. Sempre, comunque. Sempre, sempre, sempre. E continuiamo infatti con le nostre richieste. Abbiamo Francesco che dedica ai suoi coinquilini di Palermo, Antonio, Fabio, Ciccio, Rosario e Biagio, una canzone che adesso vi diremo. Sì. In onore delle loro nottate palermitane insonni. Notti piene di divertimento e quant'altro. Chissà cosa farà questo Francesco. Chissà cosa faranno questi, tutti questi ragazzi, questo bel gruppone di ragazzi. Chi lo sa, vedremo. E intanto li salutiamo. Sì, ciao. Allora, quindi ciao Francesco, Ciccio, Rosario, Biagio, Antonio, Fabio. Li ho detti tutti, se manca qualcuno scriveteci. Allora, Francesco dedica Ligabue. Certe. Già, la musichina. Certe. Certe notti. Certe notti, macchina calda, e dove ti porta lo decide lei. Certe notti, la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi, al primo autogrill c'è chi festeggerà. Restare soli, certe notti qui, che chi sa contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario, prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Come si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti son notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre prima o poi. Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui. Certe notti. puoi. Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Come si può restare soli certe notti qui, che chi si accontenta gode. Sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario, prima o poi. C'è per notti qui, c'è per notti qui, c'è per notti qui. Il programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Con Puppet Up Crix. Ho detto bene. Oh mamma. Ci siamo, ci siamo. Ci siamo.

strascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, lacrime mentre piove, piove, lacrime mentre piove. Velata indulgenza dopo l'ingrata tempesta, riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio. Mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove. Con l'ultimo bacio, appunto questa canzone, il titolo di questa canzone dà appunto il titolo, sì, lo ripeto un'altra volta così ci piace, proprio ci piace sta cosa. Il titolo di questa film. Canzone dà il titolo. Sì, vabbè, non si ripete, però vabbè, dai. Capita. Capita, cose che capitano anche a noi, bene. Allora, questo film del 2001 di Gabriele Muccino con Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi e la giovanissima all'epoca Martina Stella. Il film ruota attorno alle vicende di Carlo e dei suoi amici Adriano, Paolo, Alberto e Marco, i quali, giunti alla soglia dei 30 anni, si trovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte, scardinando così le certezze di sempre. La loro crisi è la sindrome di Peter Pan dell'uomo moderno, la paura di essere inglobati da giornate frenetiche, dal lavoro e dai doveri, rischiando così di rimanere estranei al vero senso delle cose. Carlo, che aspetta un figlio da Giulia, rimane incantato dalla sensuale innocenza di Francesca, un'effervescente ragazza di 18 anni conosciuta al matrimonio di Marco. Tra i due nasce una travolgente attrazione che porterà Carlo a tradire Giulia, ignara di tutto e alle prese con i preparativi in vista della nascita del loro figlio. E il punto di massima tensione del film si raggiunge quando Giulia scoprirà infatti questo tradimento, però con la complicità di Anna, Carlo riuscirà a farsi perdonare da Giulia, a riconquistarla, e infatti il film terminerà con il loro matrimonio, la partenza di Alberto, Adriano e gli amici, quindi di Carlo, e il loro matrimonio con la poi successiva la nascita di Sveva, la loro piccola bebè. Bene, bene. Vedi, anche questo si è concluso. Un dulcis in fondo. Sì, si è concluso bene. Passiamo al prossimo film. Oggi abbiamo scelto, come dicevamo appunto prima, Moulin Rouge. Andiamo ad ascoltare la colonna sonora. La colonna sonora, il tango di Roxanne. Cinema Time. Thank you. To put on that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Que no te puedo convencer que no te vendas, Roxana. Con José Feliciano e Jacek Coman è il tango de Roxanne, la colonna sonora del film Moulin Rouge, un film del 2001 con Nicole Kidman e Edward McGregor. Vedi un po', anche questa base che stiamo adesso ascoltando è tratta sempre dal film, sì. Voglio ricordare, di Nicole Kidman ed Edward McGregor, sempre con Come What May. Questo film è bellissimo, musical bellissimo, la storia di Christian, uno scrittore che va a vivere proprio al Moulin Rouge praticamente, e incontra Satin, è uno scrittore lui, incontra Satin, se ne innamora vedendola ballare, e c'è uno scambio di persona, poiché Zidler, il proprietario del Moulin Rouge, dice a Satin di dover far innamorare un duca. Mm-hmm. Il duca, Satin scambierà il duca per questo nostro scrittore Christian. Si innamoreranno, vedranno poi il duca, che deve fare innamorare il duca, poiché deve finanziare il loro spettacolo. Si innamorano, canteranno questa canzone che stiamo ascoltando in sottofondo, però essendo una prostituta, Satin, tossisce sangue E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lei ha preso la tubercolosi. E quindi dopo varie vicissitudini, il duca che scopre questo loro amore si sente quindi tradito da Satin, non vuole più dare il finanziamento per questo loro spettacolo. Il loro amore vince. E improvvisamente, infatti, dopo la fine del loro spettacolo, Satin si accascia al suolo senza respiro e chiede con le lacrime agli occhi a Christian di scrivere la loro storia d'amore. Satin muore fra le braccia dell'innamorato. Bellissimo questo musical. Bellissimo e triste, un po' triste però, la fine. Però bello. L'amore trionfa anche nonostante le cattiverie, le angherie. Meno male, per fortuna. Certo, viva l'amore sempre. Che bella questa canzone, l'ascolterei fino alla fine. Sì, dai. Molto bella. Come What May. Che dici? Suddenly my life doesn't seem such a waste. Con Come What May, la canzone sì, cantata sotto le stelle sul bellissima, tetto del Moulin Rouge. Bella, bella, romantica, bellissima. E adesso passiamo con la pubblicità. Dopo RMP Radio Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Lira funesta gli afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Cantami, oh diva, dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurù cucù paloma, ai ai ai ai ai, cantava cucurù cucù cucù paloma, ai ai ai ai ai, ai, ai, ai. Madonna, I can try with a little help from my friends. Oh, goodbye, Ruby Tuesday. Come on, baby, let's twist again. Once upon a time, you dress so fine, Mary, like just a woman, like a rolling stone. Con cucurù cucù cucurù. Bene, bella, bella questa canzone, dai, devo dire Franco Battiato, un grande artista italiano. Indietro nel tempo, indietro nel tempo siamo andate. Dai, adesso, ogni tanto ci vuole. Sì, andiamo ad ascoltare la prossima canzone che io dedico alla mia carissima amica Deborah, che in questo momento ci sta ascoltando. Giorgia, il mio giorno migliore. Viaggerò fino al mare, passando dal sole, tu mi vedrai. Vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci. Vengo a prenderti. Quanto basta un cuore per dirsi felice di vivere. Tu sorridimi, dammi 24 ore, ti vengo a cercare. Radio Toc Toc, un programma di Rosie e Jerry. Siete sempre in diretta qui su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. Ci siamo visti qui infatti. tanto. Ci siamo visti tanto. Ogni tanto facciamo anche i nostri saluti dalla webcam. Certo, ci vuole. Anzi, ci vuole. Salutiamo anche adesso. Ciao a tutti. Diamo una notizia. Sì, diamo una bella notizia. Bella. Bellissima. Diciamo che prima una torre d'estate, poi un brusco calo di temperature, quindi ancora caldo e infine pioggia. Questo inizio d'autunno caratterizzato da forti sbalzi termici è una manna per i virus parainfluenzali. Esatto. Che hanno costretto a letto, pensate, già 60.000 italiani. Lo ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. I sintomi sono gli stessi dell'influenza classica, le uniche terapie sono infatti farmaci sintomatici e qualche giorno di riposo. Febbre, dolori articolari, spossatezza, a volte il raffreddore e tosse non daranno tregua agli italiani costringendoli a letto. Si tratta di forme pre-influenzali, spiega Pregliasco, che anticipano l'influenza stagionale. Infatti ci sono 272 virus di questo tipo che traggono beneficio dal freddo, ma anche dagli sbalzi termici di queste ultime settimane. A chi quindi si è già ammalato non resta che mettersi a letto 2 o 3 giorni, curarsi e abbassare la febbre se è troppo alta, salvo naturalmente le categorie a rischio, anziani e malati cronici che rischiano complicazioni più serie e devono essere attentamente seguiti dal proprio medico curante. Quindi state attenti agli sbalzi di temperatura, mi raccomando. Ecco, io mi sono fatta fregare, tu? Non lo voglio dire, guarda. Bene, andiamo avanti con le nostre richieste. Oggi giornata di oggi tante sì. richieste. Prossima canzone è Eros Ramazzotti con Più bella cosa. Ce l'ha richiesta Marco, che salutiamo. Ciao Marco. Ciao Marco. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che immensa quando vuoi, grazie di esistere. Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Sin esistere. Grazie di esistere. Ecco la nostra sigla, quindi vuol dire che siamo arrivati alla fine del nostro programma. Purtroppo ci dobbiamo salutare, ma niente paura, radioascoltatori, anzi CRMini, sì. Niente paura perché siamo di nuovo con voi mercoledì. Sempre dalle 17 alle 19. Non mancate ovviamente. Prima di chiudere volevo fare due salutini veloci. Saluto la mia carissima amica Maria, un bacio grande. E poi Pasquale, ciao Pasquale. Ah, quel signore che abbiamo salutato dal balcone. Esatto. Ciao Pasquale anche da parte mia, forse però lui non mi ha visto. Va bene, adesso mi saranno arrivati comunque. Facciamo ascoltare la nostra sigla, perché ormai la facciamo ascoltare sempre all'inizio. Oggi la facciamo sentire tutta. Tutta, sì. Che sì. Sarebbe Madonna con Hang Up. Quindi ciao, a mercoledì. Ci vediamo, anzi ci sentiamo presto. Baci, ciao.